fortuna perché da grande bisogna avere un capitale vicino Brindisi per capire la bontà. Dove vi invita la mia mamma famiglia in totale. Ora il problema di cui queste due ore di oggi non riguarda tanto la ricerca delle lingue all'indietro, di solito quella ricerca prevede che siano lingue che poi il legame tra di loro lingue sacre si è sempre ricacciato all'indietro. Non suono la prima cosa che mi piacque da vicino, che nasce con me, il Berlino della musica, si chiama da grande. Quando ecco, se fosse stato qui, aveva associando la musica, forse non sarei mai avanzata, quell'ambito scandescenze, piuttosto grezzo. Ecco, questa è forse la prima cosa. Niente segnale. E allora c'è su un problema che è stato drammatizzato molto. A me me la domina la donna. Un dinello d'ombra. Sì. Nero o bianco? No, è lo stesso. Nero. No, ma non è logica. Sempre ci sono varie forme. Questo sogno c'è. Facciamo solo lingue, vota! Il puro cielo italiano, che è Bologna, invece il dialetto dice io, me, a son, med, salta il pur, pur sì, e pur sì, sa cos'è pur sì? Idee tali che sopravvivono al sopra o al di là delle forme che vedono le lingue naturali. Ma il vero bolognese ha le parole un po' allargate. Se è possibile, ad esempio, il topo, non so, quei topini. E il vero bolognese sono tanti. L'inglese dopo. Ponga. Un topo. Il dialetto bolognese. Io ho visto una topa, una panga. C'è proprio la parola un po'. Che si parlerà di Hemsley, già entrato in gioco per il significato. No, il vero bolognese. Il vero bolognese. Rappresenta così, che è quello stesso qualcosa, no? Al vero, no? Il vero bolognese, mostazette. Poi il violetto dice Chaplin, prendi un topo, in verità, prendi un topo, poi la metti dentro in un bidone, in un coso, in una latta grande. Dentro lì puoi fare così, scudosla, scuoterla, scuoterla perché dopo lei muore. Allora il bolognese dice prendi una panga, metti in talpidan e poi scudosla. Scudosla. Perché muoia, sì, ci sono le trappole, ma e tutti i proverbi dei vecchi di una volta, proprio il vero bolognese, cioè, ti ricordi questo? Eugenio, ti ricordi? Come spendere la ci va a vedere dentro? Pulitissimo. Sta quasi un tipo splendente. Mi sicuro. La porta del sesso. Vabbè, siamo in costruzione, di nuovo, Ciao. Ciao. Ciao. Scusate, abbiamo finito il confetti comunque. Stavamo parlando di matrimonio, Di matrimonio. Oh, ragazzi, come va? Questa è la nostra c'è la panca, struttura. C'è spazio. Io scusate, non sono molto complimentoso. Comunque, ecco, sì, sì, no. che adesso ci ha messo e ma mi state vivo da 28 anni io che cioè foto che se lo ricorda sempre dopo e aspetta che fumo cazzo che non posso qua fumare so. Sapete se no c'è il reggi palle? Esatto, il reggi petto e il reggi cervello. Thank you. Baldo. Non so. Che termine, come Mercurio? Ne che fai il becchino? Cambia! Sono stato dire al maresciallo. Abbiamo un capo di soldi nei buoni tutti i tempi. Oh ragazzi, muoio tutti i giorni la gente. Oh ragazzi. Alla morto. Uno spesso termine può una termine. Un attimo. È regolare. Invece che paghi la paglia. È regolare. Invece fa la paglia. Non è possibile. Beh, è morto. E di momento si Quando la amavi, dove andavi? Andavo nascosto. Dove? Al portone. Cosa sei? Curiosamente. 35 km di porto troverai il porto. Troverai meno un porto. No, solamente una volta l'altra per l'Ambrosia, i 20 km di ciclata. Problematizzare il problema. Denunciate i sinonimi nei casi di traduzione radicale, entriamo in una palude incontrollabile. Irradiazioni oculari che inglobano contemporaneamente il vetro, come detto prima, la visione incerta di un coniglio, quella incerta di un parassita, apparterebbe un genere al significato simile per gli indigeni, non a quello di coniglio. Quindi, c'è tra l'altro. Quindi ci potremmo stabilire una sorta di continuo, ma lo so, ma è abbastanza semplice come rosso. Ha enunciato occasionali ed osservazioni, ma eccoci. Motto orto fiore. Mario, la vita è un lampo. Oh, il tempo passa in fretta, eh? Da là uno stampo e quell'altro un passatempo. Vero? Sì. Tanello l'orlex, scarda da verchi saccosso. Ma mica registrare questo, beh. Ho detto una cosa, una stronzata, eh. Ah, guarda, se lo dico proprio, poi mi sono stata ridotta perché. I mobili 3 stelle in tutta la vostra regione, a Bologna. Mi scolavano, e per pazzi che siano, mi scolavano. La possibilità di una lingua perfetta, logica, internazionale, mi piace l'altro prendere varie forme. Questo sogno c'è dell'Emilia Romagna. Intendiamo per cani, degli animali, così, intendiamo per cose. Che mescolavano sostanze varie, e per pazzi che siano, distillavano alto, facevano macinati, sulla lingua del formatore nativo, tale che questa lingua possa essere vista e ricostruita con un suo nucleo di verità analitiche simile al nucleo dell'osmo e quindi sia possibile. Ciao, mette il tombidone poscudoso. Questa sette. Cos'è che rende incontro? Quando corrono non ti danno ascolto. È proprio la forma che e eccetera, possono essere riconosciuti. Perché quando nomina il sale, lo dottore, eccetera, non è affatto stupido.